Mi hanno detto che vivi da solo e che spesso racconti di me. Certi libri di scuola li tieni con te. Troppo grande il tuo monolocale, troppo vecchio il vestito che hai. C'è una vita normale, ma tu non la vuoi. Non potrai liberarti di noi, cancellare un ricordo della vita che scorre con te. Stai cercando qualcosa di me. Malgrado il silenzio c'è un canto che va, è un'immagine assente che molto ti dà e non verrà, è un profumo preciso che adesso non hai, rimane un sorriso che conserverai, e se dentro il tuo sogno c'è un posto per me, torno da te. Una voce, un sospiro lontano, un perché, come fosse una mano già in cerca di me, eri tu, più vicini e feriti che mai, non è solo un ricordo, è la vita che scorre con me. Sto aspettando qualcosa da te. Questa notte è un messaggio che libero va, che prende coraggio e sorvola città. È una notte di stelle che guardano noi, quante ne vuoi. La notte sorprende chi disse di sì, è una notte di stelle che guardano noi, quante ne vuoi.